Europa 24. Cari amici, ancora un saluto da Gigi Donnelli. Dunque, il rapporto Bruxelles-Ankara, ovviamente Bruxelles riguarda i 27 stati dell'Unione, ormai ci dobbiamo abituare, o meglio 28 tecnicamente, tenendo conto del Regno Unito. Un rapporto evidentemente molto difficile. Questa mattina e poco fa avete sentito questa nota citata da Simone Spezia del governo tedesco, quindi sul fatto che il governo ritenga improbabile l'apertura di nuovi capitoli. E ha parlato di questo anche l'ex presidente della Commissione Romano Prodi, che ha sostanzialmente sintetizzato l'ipotesi di ingresso della Turchia nell'Unione Europea con un termine: forget, dimenticatevelo, da dimenticare essenzialmente. Così appunto dopo il fallito golpe. Prodi, in occasione dei lavori del Comitato Scientifico della Fondazione Merloni, scrive: deve dimenticare l'idea di entrare nell'Unione Europea. Adesso è davvero finita e forse dovrà dimenticare anche la NATO, con 500.000 persone sotto le armi. La Turchia è il secondo paese dell'alleanza dopo gli Stati Uniti. Dunque, o cambia la Turchia o cambia la NATO, anche se sarebbe bene che cambiassero entrambe. Non si capisce, ha concluso, cosa fa oggi la NATO, che non cambia mai i suoi obiettivi, quando invece è cambiato il mondo. E di NATO ne ha parlato anche il candidato appunto repubblicano Trump, creando qualche agitazione. Ha messo in discussione di fatto il caposaldo dell'alleanza, il principio per il quale se uno Stato viene attaccato, l'automatismo è che gli altri stati reagiscano. Sentiamo servizio. Un'Unione Europea più forte significa una NATO più forte, e una NATO forte è fondamentale per la sicurezza dell'America. Parole dell'alto rappresentante per la politica estera europea Federica Mogherini. Siamo destinati a stare insieme, dice, intervenendo a Washington al Carnegie Endowment sulla nuova strategia globale europea. Nessun riferimento esplicito alla frenata di Donald Trump sulla NATO, ma un chiaro auspicio, specialmente in questi giorni, sottolinea. Posso solo sperare che il prossimo presidente condivida lo stesso impegno di Obama per la nostra cooperazione transatlantica, dice Mogherini, ribadendo che Unione Europea e Stati Uniti hanno bisogno l'uno dell'altro. Nessuno di noi potrebbe affrontare le sfide comuni da solo, aggiunge. Va ricordato che solo due settimane fa, nell'ultimo summit NATO della presidenza Obama, è stato deciso lo schieramento di 3.000 militari, di cui 1.000 americani, tra Polonia e paesi baltici. Un fronte orientale rinforzato per contrastare le politiche nazionalistiche di Putin, il cui idillio con Trump, tra legami finanziari e lusinghe, è tutt'altro che nascosto. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Commissione europea rilancia la procedura di infrazione contro l'Italia per i mancati interventi di prevenzione di contagio da Xylella, il batterio ritenuto responsabile dell'essiccamento delle piante di ulivo nella Puglia meridionale. Non dovranno essere tagliati gli alberi, assicura comunque l'eurodeputato PD Paolo De Castro, membro della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo di Strasburgo. Lo ha raggiunto Roberta Pellegatta. Bisogna applicare le regole, questo è il punto fondamentale. Applicare le regole significa, al momento, questo chiariamolo a tutti gli ascoltatori, non bisogna tagliare nessun albero, bisogna fare monitoraggi continui affinché non ci sia il rischio di uno spostamento verso nord del batterio da quarantena, della xylella fastidiosa. Quindi nell'area del cuscinetto bisogna controllare, qualora ci fosse un nuovo focolaio, in quel caso bisogna ovviamente intervenire. Tutta l'area sud della provincia di Lecce, parte della provincia di Brindisi e di Taranto non occorre tagliare, semmai lì occorre invece avviare una nuova, come dire, ottimismo, speriamo, degli olivicoltori, rilasciando anche la possibilità di nuovi impianti. Questo credo sia un fatto fondamentale, perché dobbiamo ridare fiducia e speranza, non possiamo fermarci solo alle notizie negative. E con questo è tutto, adesso tutti convocati, noi ci risentiamo lunedì. Europa 24. Collaborazione con Euronet Plus.